Ali! Eto! Buonasera! Ti aspetta, Bobo! Ehi, Bobo! Ti direi, vai, Rino! Ehi! Sei entrato adesso? Dove immaginata, A tutte le nostre passeggeri, con la serata bella, hai fatto bene! Con la serata bella! Però era in giro. È bacchissimo, si è sentito. Oh, ancora non ho sentito. Ho acceso adesso, Lo sai che sta puttana dei colori, so. Spiegami. L'ho telefonato e mi ha spiegato come fare. Ma ho provato, non ci sono riuscito, mi ha dato altre cose. Dalla monopolina, no. Con il tasto della frequenza. No, da un tasto che c'è. Bisogna mantenerlo premuto, riaccenderlo, senti a fare. E queste cose con le frecce e ti dai che cerchi i colori, capisci? L'avevo visto stasera in internet, io stavo guardando su YouTube com'era, che bisogna spegnerlo e poi riaccenderlo e ti dà queste cose qua sulle frecce, sì. Stavo guardando io stasera. L'ho telefonato e mi ha spiegato come fare, capito? Evidentemente devo riprovare, mi sono stufato e l'ho lasciato così. Adesso magari domani ce lo riprovo. È così perché ho visto che cambia qualcosa, così che da monopolia, evidentemente ho voluto quattro troppo forte, oppure magari leggero o piano, bisogna saperlo, capito? Bisogna provare a vedere un po'. Infatti, bisogna provare piano, bisogna provare. Così che. Bene sta andando. Sì, Gian Maria, sì. Sempre bene? Sì, a voglia. Allora, tranquillo. Speriamo che sentiamo a Bacchiglio stasera. Con l'innovativo. Non so se gli hanno male, perché dice che. Nel coso dice che c'era scritto che per il momento non ne hanno, glielo mandano più presto. Ah, già è vero che era esaurito. Sì, allora ritardo, allora. Prima o poi arrivo. Infatti, prima o poi già arrivi. Che dici? Hai sentito la propagazione? Sono forti, sono. Sono forti, sono. Iuia. Adesso è tempo di propagazione, per cui. Qualcuno già lo chiamiamo qualche volta, non sempre, no, qualche volta, tanto per ammazzare il tempo, va. Non è che mi interessa più e tanto arrivare lì, capito? Quando si fanno sentire, basta mandargli un paio di saluti e arrivederci. Oh, mica ce ne sono belli, mio, sto. Stavo guardando stamattina, sai che ce ne sono belli veramente, e più grandi pure, sono belli, ce ne sono belli dell'ala, di Misla, ce ne sono parecchi, anche della Fayette. Quello lì, stasera io stavo guardando prima di uscire con il cane. Stavo guardando e poi ho visto anche qualcuno aperto di quelli lì. Di quelli lì ne ho visto qualcuno aperto dentro, facendo vedere lo schema delle. Come è fatto dentro. Non ho capito, scusa che mi hanno interrotto. Ecco, che di quelli lì uno l'ho visto aperto dentro, su YouTube. Ah! Beh, ci sono sono i filmati, che qualcuno lo apre e te lo fanno vedere, capisci? Sì, infatti, quello che cambia colori, quello l'hanno fatto vedere aperto, da una parte dove ci sono tutti i circuiti e tutto. Bisogna entrare, come tanti altri ne ho visto, quello che avevo dato, bisogna far entrare nel menu e poi col pomello giravi e tirati a tutte quelle cose che volevi, capito? Su YouTube c'è cose che te lo spiegano, quello a colori. Quello c'era, che ti spiegano tutto quanto, Devi trovare quello, il coso che ti spiegano in italiano, anche se te lo spiegano poi anche in inglese. Quello in italiano devi trovare. Ah, io li guardo anche molto spesso io, capito? E tutti i tipi, ogni tanto sto l'attendo, vedi e guardo. Infatti stamattina l'ho acceso e ne ho visto parecchie, va bene veramente, è anche più grandetti di questi qua, di questo qua, capito? E dell'ala però, anche l'ala 48, però l'ala 48 non so se è omologato oppure no. Sì, sono tutti omologati, sono i nuovi, diciamo uguali a quelli vecchi, l'ala 48 è uguale a quello vecchio. Solo che gli hanno cambiato, deve darsene in giamba dell'etichetta, o l'hanno rifatto un nuovo e coso, sempre con la stessa maniera, o gli hanno cambiato solo l'etichetta. Se sono omologati, sono belli, non pensavo, comunque, ma mi sta bene così, va, è meglio abbassa così che ho tranquillo adesso, va. Fatto uno, due, non di più, perché se no la questione comincia, cosa ne fare, non fai tanto niente, capito? Infatti meglio avere sempre uno o due, è meglio, se si interrompe uno c'è l'altro. Andiamo. E poi ormai sono già tutti quasi tutti digitali, la maggior parte, capito? I nuovi sono tutti digitali. Infatti sono tutti digitali adesso, e ce ne solo che ce ne sono molti che costano 110, 115, 130, 150, 170. E infatti, quello dell'ala mi sembra che sia da 120 e anche a 130 arrivano, se te disse lo danno 130, però ce ne sono anche 119, anche li ho visti, l'ho visto la barca di stamattina. E quelli della Fayette non li hai visti? Ho visto anche la Fayette, sì. La Fayette però rimane più piccolo. Ma è il prezzo, ho visto là il grande asso. Non mi ricordo quanto è quello. Solo passa anche i 200 passa, perché c'ha il coso modificabile dentro, con le frequenze che in coso. No, aspetta, la Fayette c'ha, va anche USB, va. USB e LSB fa, ecco perché è alto ed è omologato. Vedi, quello potrebbe interessare a parecchi, perché c'ha le bande anche, capito? Perché almeno uno ascolta e se vuole ci può parlare. L'importante è che sia omologato, capito? Se è omologato anche se costa un prezzo del genere va bene, capito? Perché c'è tutto allora. Passa i 200, passa. Infatti, passa i 200. Ma se è omologato va bene. Però lo penso che convenga più di tanto, più di 200. È completo, allora se c'ha le bande, quello c'ha MFM e le bande, capito? È completo. L'hanno fatto 40 canali, l'hanno fatto, tanto più di tanto no, non fanno. Però si può aggiungere dentro, si può aggiungere un circuito, si può aggiungere. Io l'ho letto, e si può aggiungere un circuito. Ci sono che si possono anche modificare. Anche quello nero a colori, quello si può modificare anche, sia per i canali anche per la potenza, ma adesso lo fa fare, non conviene nemmeno. No, infatti, intanto usi più di 40 canali, non lo usi, a voglia. Rimani sempre in quei canali lì, rimani. Ma e allora? Che ne so, ma non sia commercio, penso che sia commercio, allora, adesso le stanno facendo vedere parecchi, ma e chi li compra? Oh, c'è sempre qualcuno che lo prende. Oh, sono in Italia, sono parecchia gente ce li ha, a Roma ne sento parecchi, io dal computer, ne sento parecchi a Roma che ce l'hanno di questi apparati qua. Poi si aggiunge anche Torino e Milano e di questi così qua. Perché forse magari in altri Italia, forse dice, vabbè, l'Italia è grande, per cui, però io non qua in Sardegna, non è più nessuno. Tutti morti. Sì, perché la banda degli apparati non è. Tutti quanti sono disfatti, ma se piano piano ritornassero a farlo, a averli un bel po' di gente per riprenderli, vedrai che sarà una cosa più utile questa del telefono. Vabbè. Che ci sono 40 canali, che ci abbia le bande, e va bene, sembolo gatto, anche se alto più alto il prezzo, va bene, ma almeno il monogatto c'ha le bande e sarà completo, uno è buono, capito? E le cose, solo lo... anche le cose c'era, mi sembra, anche del Midran, mi pare che è così. Portatelo invece, se sono l'ala 42 o un altro tipo, come portatelo, però non ce ne sono proprio, che abbia anche display e che sia bello. Quello l'ala fa schifo, grazie, scusate la frase, non mi piace a me quell'apparecchio. C'è quello della Fayette, cioè, che rimane piccolo. Io l'ho visto l'altro giorno, quello della Fayette, però non si guarisce da Ciappallù, è in Gacatrurugu, perché costa parecchio, costa. Mi sembra di 740. Anche di più mi pare che costa. Ma capestabile, per carità. Dai, ci mettiamo uno di questi in macchina qualche volta, se mi deve regalare ad attaccarli in macchina, la base magnetica ce l'ho, per cui qualche volta lo metto in macchina, ma qualche volta però so, se no non è che faccio viaggi lunghi io, se no l'avrei messo, ma per sante non mi conviene attaccarlo. No, in città non ne metto, io lo metto solo quando devo andare fuori. Faccio un'antenna con la base magnetica da 1,30 m, l'antenna. Da 1,30 m, io ne ho una di 70 centimetri, che io avevo sempre le come si chiama, zodiac, che macchina. E andava bene, andava bene, andava. E mi sentivano da parecchi, capito? E ce l'ha ancora, solo che io avevo prestato il capo a uno, cazzo, non me l'ha più tornato, e adesso io devo cercare una basetta per farmi di nuovo l'attacco, capito? Quelle basette lì, aspetta, io le ho viste in internet, le ho viste in un coso. basetta già si trova insieme al capo. Oh, si trova. Se si trova qualche giorno l'ordino e perché è sempre comodo, capito? Se male l'attacchi e poi attacchi, perché c'ho anche quella grondina, io l'attacco, che va più bene della magnetica, c'ho quella grondina che puoi metterle come ti pare, oppure sullo sportellone di dietro, oppure sulla grondina sopra lo sportello, capito? È bella quell'attacco, quelle di una volta non so se fanno bene, quelli lì due con le macchine di adesso. Ok, a te mi sembra ne abbia in magazzino due o tre, che ne sono, una la proprio regalata a California, la Sigma era un beluga, mi sembra 1,80, mi sembra che era lo stilo in acciaio, però mi sono rimasti 2 o 3 ancora. Mi pare lo stilo, mi pare naggio 3 naggio, una gli manca la basetta di sotto, gli manca, e poi ne ho altre due di quelle nere, da una da mia barriera sia da 70 cm di quelle nere. Vedo un po'. No, quella che usava sulla Renault da 70 cm, quella era forte, era là, sullo spartellone, era attaccato dietro. Come, e poi era comoda, magari perché mettendo sulla capoccia magari passavi sotto a quella calma e te la rovinavo, capito? Invece l'ho messa sullo sportellone dietro e andava un bel bene a fianco, a sinistra, ed è un bon buon, si dà per due, mi sentivano col Zodiac. Già così sì, e io per forza sulla capoccia la devo mettere con la base magnetica. Non c'ho un altro attacco da attaccarlo dietro. Perché non si arresta, non è perfetto quella base, capito? La base non è diversa, invece mettete la grondina è più, perché la pizza fa massa più bene, capito? E la grondina è l'unica. Lo so. So che bisogna stare attento a non bucare la carrozzeria, a non rovinare la carrozzeria molte volte. No, a bucarla no, io non l'ho mai bucato carrozzeria, mai. Perché quella basetta che usavo sulla Renault, quando avevo la Renault, che era sullo sportellone, e c'erano due zizze piccoline e andava attaccata allo sportellone, ma non li faceva niente perché erano le zizze di due zizze, erano appuntiti, capito? Così che non succedeva niente alla carrozzeria. Infatti c'aveva il pezzo della gomma, c'aveva, che intaccava sulla carrozzeria. Sul basamento della grondina sì, però c'erano le vicine che il nostro telefono, la basetta, che stringeva con le vite, capito? Però sul basamento aveva la gomma, capito? Infatti già è così. Cioè, così che io ce l'avevo, poi non so come manco di calugo di uscita che sta con la basetta lì. C'è cosa? E chi è? Chi è? Hola. Buonasera. Signor Marì, buonasera. Buonasera, ciao di Maria, lo sono chiamato. Ma guarda che c'è in FM, Gio Marì. Guarda che c'è in FM. No, noi siamo in AM, sei tu in FM. In AM, Gio Marì, in AM. Come io faccio bene, Ehi, sono qua, sono qui. Aspetta. che c'è il signor Macchio. Buonasera signor Macchio. Buonasera signor Sì, che l'ho ascoltato io. Allora, signor Bacchi. Hai sentito, Mori? No, negativo, non ho ascoltato. Lo stavo solo modulando gli altri. La preparazione. Cosa hai detto? Perché giù, a salire su è troppo tardi. Ci andavo. Ciao, ciao signor Bacchisio, buonasera, ben entrato. Come si va? Come si va, Bacchi? Perché a te ti piace in alto, salire in alto. Più in alto sale Bacchi, almeno si sentiamo più perfettamente, così è tutto. Ah, io già l'ascolto anche così. Ahimè, andate, vi potete che so che avvicinare un microfono, che non si allontana, se no non rendendo mai nulla. Da chi? Da lì, da in alto dove sei, si sentiamo perfettamente. Però quando scendi giù, proprio terra a terra, bisogna aumentare. Avanti Marie. Più di un watt non va, quindi rimane basso basso lui, ecco perché. E per l'appoggio. Mi ha dato appoggiando, non ti fa venire a fuggire, avanti al tavolo, sono lì a storia, da chi sono io, avanti al tavolo. Se ti dipende Santa Cosetta, tu, Mari, ciao ancora a tutti comunque. Cosa vuoi, Santa? Sta arrivando basso, ma sì, 27205 come frequenza. Ehi, hey, ok, ciao Antonello. Non se n'era accorto lui, però io lo sentivo bene, anche se era lontano, l'ascolto bene io. Andate, ha ascoltato a Bacchi se cosa ha detto. A chi? A me o Antonello? A te, stavo dicendo. Suo, più di un watt non va, quindi ti devi arrangiare con chissù per un momento. Va bene, allora già sei a posto. scusi, uno so calato sotto. Ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Riprende Mari. Ciao Bacchi, ci sentiamo. Buon quiriti, buon tutto alle prossime. Vada bene. E allora se lo faccio, guardate come è che bello. Ehi, oia, cazzo, aspetta che sia rientrato Gian Maria. Gian Maria. Ok, salutiamo a Bacchisi allora, ancora buonasera, ben sentito e buon proseguimento di serata, saluto in casa. Ci sentiamo a Bacchi, mi raccomando, adesso devi scendere in basso, già in discesa, vai più in fretta. Ciao, ben proseguimento. Riprende Antonio, buonasera anche a te. Buonasera Gian Maria, ben riscucito anche a lei. Ho visto una foto di cosa l'altro giorno lì. Mi ha scritto che sei già tornando. No, amore, ma quanto ne fa? Ma con me? Allora sai cos'è successo in quell'apparecchio? Che io stavo provando per quel fatto che stavamo parlando e invece mi è uscita una sigla che è rimasta inserita, ecco, sembrava in FM, ti sentivo io, è basso basso. Avevo capito che era così. Vabbè, dai, non fa nulla. Già si è rimesso a posto. E domani me lo rimetto a posto, va. Non è una. Già so come si fa adesso. Ok. Avanti Marì. A me non mi arrivi, se non mi ha giornato ancora. No, nulla da fare, non ne hanno per il momento. Ce l'ho ordinato, però non ne hanno, quindi stanno aspettando che glieli portino per mandarglielo. Andave. Vabbè, io ne approfitto che mi sociamelli. Andave, ciao Gio Maria, ciao Antonello e ciao Marino. Statemi bene, tutti ci si rientriamo domani. Ok, ciao a tutti. Io chiedo, ciao, ci sentiamo, buon provvedimento, ci sentiamo alle prossime. Ciao Marino, buon provvedimento e ciao anche Antonello. Antonello, riprendi tu, io chiedo, vai. Ciao Gio Mari, ci sentiamo, buon quiriti, buon tutto alle prossime. Capa, quindi state chiedendo quasi tutti. Chi c'è rimasto? Dammi la fine. Ma secondo cosa devi fare ti conviene. Cosa devi pulire, ragnali? Ma da qua sapone avevo comprato, sono... sono due in un pacco unico, ce ne sono, quindi queste sono quelle insaponate, quelle le puoi usare per i radiali, la luce radiale, una volta che li passi quello via per la palla di acqua, poi da avere esce luce, lo sei alluminio, capito? No, non sono riuscito ad avere qualcosa, ho mandato un messaggio l'altro giorno a Antonello, non mi volevo rispondere, non lo so. C'era il coso che l'avverte, c'era il telefono acceso, non mi ha risposto per niente. E quindi non... Speriamo che entri qualche giorno per sbaglio, magari che glielo chiedo e non c'è problema per quella storia, capito? Così sei più tranquillo. Allora vediamo cosa dovete dire. Se non c'è quello al limite mi faccio un giro su internet e quello che trovo ti faccio sapere, al limite scrivi e te lo fai mandare come ho fatto io. In pratica anche io ne ho richiesto uno, me l'ha mandato quelli e 5 rosmetri, un accordato per l'antenna eccetera eccetera, poi la maggior parte dei rosmetri li avevo tutti dati, ne sono tutto solo due. Mi sono tenuto le M500 e le TM1000 e basta, non mi sono tenuto altro. Gli altri dos mi tenevo tutti gli altri, doppio ago eccetera eccetera, avevo tutti quanti dati. Non ci ho neanche un cane, ho fatto o la canale 5 o la canale 5 e non mi intendo questa cosa, prima il bip e poi o la canale 5 o la canale 5, giusto, cazzo che strano, non è una M, fare una FM e c'era un ponte ripetito di pappagallo, c'era in Ucraina, allora dopo che sono entrato io mi hanno risposto in due, prendevo l'ho chiamato e mi ha risposto, dopodiché si sono messi a parlare uno con l'altro, allora io facevo, allora passo, e sentivo sopra loro a me, figurati in quel ponte pappagallo, e mi hanno tirato roba di bestemmie perché non riuscivano a modulare uno con l'altro. E ti ricordate quando c'è pappagallo in Ucraina, basta che vai sul 5, mi. C'è il ripetitore pappagallo e ti diverti, cazzo. Almeno ti sente tutta la zona della Polonia, roba del genere. Lì è pieno di ripetitori, tutta quella zona lì è tutta piena di ripetitori pappagallo, il 27. Non è canale 5, oddio? Sì, è sul 5, sì, in FM, è sul 5. Adesso non ci ha già provato questo, e se mi sarei ripetito si mette, c'era intorno alle 3:30 o 4, l'ho beccato stasera, per sbaglio, adesso quando sento propagazione della zona della Polonia, roba del genere, mi faccio un giro sui canali, schiaccio a portata, se sento che il bip del microfono che ho io, quindi lì c'è il ripetitore, e utilizzo il ripetitore a gratis.